Io continuavamo in piedi di fronte alla finestra della casa delle signorine Campos. Un silenzio di pace pervadeva l'ambiente. Con curiosità guardavo il mio corpo infantile senza comprendere totalmente il prodigio. Ora parla tenera amata. Considerando l'organismo umano dalla prospettiva del momento attuale del tempo, non dalla quinta dimensione, esso si rinnova incessantemente. Mediante l'assimilazione, esso incorpora continuamente nuova materia che acquista vita e con l'eliminazione elimina materia che era viva poco prima. I corpi umani cambiano incessantemente, in modo che ogni 7-8 anni, più o meno, quasi tutte le molecole chimiche del viatore si rinnovano. Pensa allora che tu stesso nel corso della tua vita hai cambiato di corpo materiale 7-8 volte. Tuttavia la tua anima spirituale, libera ed immortale, continua ad essere sempre la stessa. Ebbene, affinché tu possa ammirare meglio la grandezza della tua anima eterna, osserva che il tuo spirito, nel renderti testimonianza del tuo incessante io personale, continua ad essere la tua unica anima indivisibile, insostituibile, senza parti componenti. Essa, attenzione a queste espressioni, è la forma sostanziale del tuo organismo totale. Se non capiamo questo passaggio, non capiremo poi niente, e soprattutto non capiremo una cosa apparentemente sconvolgente di queste rivelazioni, ma che se si capisce questo, sconvolgente non è affatto. Ripeto, essa è la forma sostanziale del tuo organismo totale, cioè di tutti i tuoi corpi materiali, fin dallo stadio di cellula uovo. Ma non devi supporre che ciò che è accaduto al tuo corpo integrale, attenzione a questi concetti, è corpo integrale, per il fatto di essere già accaduto, sia svanito, sia definitivamente finito. Non credere che i tuoi cambiamenti corporali, siccome appartengono al tempo passato, siano stati annientati. No, attenzione, perché nella realtà oggettiva non sono avvenuti, ma stanno avvenendo. Sono in esistenza. Nell'ambito dell'eternità creata o quinta dimensione. Leggo un altro passaggio e poi facciamo tutto quanto uno stop congiunto. Dunque io possiedo una sola anima spirituale, ma con 7 o 8 corpi diversi? Risponde tenera amata, nell'eterna realtà oggettiva. Hai un solo corpo integrale, il quale un po' per volta ha preso diverse sembianze, stature, complessioni, materie ed energie. Ma i tuoi 7 corpi perdurano intatti per sempre nel passato del tempo terrestre o quinta dimensione. È meraviglioso. Allora, qui ci sono dei concetti che dobbiamo focalizzare. Allora, alcuni sono empirici. Se noi guardiamo le cose dall'ambito della nostra dimensione, penso che questi sono dati oggi scientificamente acquisiti. Abbiamo un processo, noi quando ci alimentiamo, il nostro organismo, poi vedremo chi è che presiede a queste funzioni, scompone il cibo, lo trasforma in energia, quindi viene il processo di assimilazione e al tempo stesso noi in continuazione stiamo facendo dei processi di eliminazione di materia, quelli fisiologici e anche quegli altri di tipo comunque fisiologico organico, tipo per esempio, uno tra i tanti, è la sudorazione. Questi processi comportano una assunzione di materia che prima non c'era e di espulsione, eliminazione di materia che prima c'era. E attraverso il procedere in continuazione di queste attività si determina un rinnovamento delle cellule. E la scienza ha appurato, la scienza vera, non quella con l'H, ha appurato che, diciamo, se io sono arrivato a 50 anni, ogni 7-8 anni c'è un rinnovamento integrale. Quindi 7 per 7 fa 49, cioè le mie cellule sono la settima tornata. Chiaro? E tanto è vero che a un certo punto, però, no, Zubio, sta attento, l'anima tua è sempre stata la stessa. Ma attenzione, qui bisogna, per capire la sottigliezza, bisogna capire la definizione che di anima diede San Tommaso e che la Chiesa ha fatto proprio. Fatto propria. San Tommaso disse che l'anima è la forma del corpo. Dire la forma del corpo vuol dire che con il corpo forma un tutt'uno, di per sé inscindibile. E in effetti la morte, sotto questo punto di vista, quindi rappresenta proprio una cosa assolutamente innaturale, contro natura. Perché l'anima è stata fatta per stare insieme al corpo. Noi non siamo angeli. Attenzione però, ai tempi di San Tommaso tutte queste cose non si sapevano. Cioè, adesso sì. Quindi l'anima non è la forma semplicemente di un corpo, perché tu non hai avuto, cioè se dopo 7 anni ti cambiano tutte quante le cellule, tutte, di tutti gli organi, sono tutte quante rinnovate. Non si può dire che il tuo corpo è lo stesso, stando in questa definizione. Quindi c'è avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo vale evidentemente nella dimensione del tempo. L'anima, attenzione, è per questo che la chiama, è la forma sostanziale, definizione tomista, ma non semplicemente del corpo, del tuo organismo totale, cioè di tutti i tuoi corpi materiali, fin dallo stadio di cellula uovo. Perché dirò che questo è importantissimo? Perché con la morte, tutti quanti dicono, avviene la separazione dell'anima dal corpo, avviene la separazione dell'anima dall'ultimo stadio del corpo, cioè da quello che immediatamente con la cessazione del battito cardiaco diventa cadavere. Ma se uno capisce queste cose, da tutte quante le fasi precedenti, l'anima non si stacca manco per niente. Perché nell'eternità creata, spiega, i cambiamenti non sono avvenuti, sono tutti quanti in atto di avvenire, sono in esistenza. Perché la legge dell'eternità creata è semplicemente l'essere. Questo concetto deve essere chiaro, deve essere, altrimenti proprio non credere che i tuoi cambiamenti corporali, siccome appartengono al tempo passato, siano annientati. Quello che sta vedendo Riccardo lì è il suo essere bambino e lui lo vede come una cosa in atto, cioè non è che sta vedendo un film, cioè vedremo poi che cosa succede a un certo punto. Cioè, sta vedendo una realtà che c'è. Noi adesso non la possiamo conoscere perché siamo legati come uno schiavo a catena, visto la volta scorsa, all'istante che passa. Ma il mio organismo di bambino, il mio e il tuo, ora, nell'eternità creata, è. Semplicemente, non ha cessato di esistere. È che fino a quando io sto nello stato temporale della quarta dimensione, sono viatore, soggetto tra l'altro al peccato originale e legato a catena all'istante attuale, non lo posso percepire. Ricordate l'esempio dell'altra volta, il treno e l'aereo. Cioè, se io vado sul treno, dice, se vado sul treno, che me ne importa? della dimensione altezza. Al treno non serve la dimensione altezza. Ma se tu vai sull'aereo, dopo l'altezza la conosci, no? Riprendo. Quindi attenzione, un solo corpo integrale che ha preso diverse sembianze, stature, complessioni, materie ed energie. Ma i tuoi sette corpi perdurano intatti per sempre nel passato del tempo terrestre o quinta dimensione. Riprendo, è meraviglioso. Bene, se i tuoi sette corpi si contemplassero dal piano dell'eternità creata, non da questo, dal mio attuale punto di vista, si vedrebbe un solo organismo totale, allo stesso modo di come i sette colori dell'iride si unificano attraverso il colore bianco, mediante il disco di Newton. Adesso, per chi non sapesse tante cose, provi a fare un giochetto, d'accordo? Perché queste cose si possono, in parte, la luce, se io c'è una lampada qua davanti, questa luce qui, provo a girarla, se gira, vediamo. Ecco, la si vede come bianca, no? Ordinariamente. Ma la luce non è bianca. Perché se io prendo un pezzo di vetro, anche un bicchiere normale, meglio ancora un prisma, e lo metto davanti alla luce e lo guardo, io vedrò la luce scomposta. Perché la luce è composta dai sette colori dell'iride, non è bianca. È l'insieme di questi sette colori colti dal mio occhio attuale che me la fa vedere bianca. Se tu c'hai il disco di Newton, che è lo strumento migliore per fare questo lavoro, lo vedi proprio perfettamente. Ma se tu osservassi attraverso il prisma del tempo, il tuo unico corpo integrale, a modo di un fascio di luce bianca, subirebbe una rifrazione, dando appunto i sette colori dei tuoi sette corpi differenti. E l'interminabile gamma di sfumature che corrispondono ai tuoi atti di esistenza e agli spazi-tempi che li conservano. I miei atti di bambino sono conservati negli spazi-tempi del 74, 75, 76, d'accordo? Com'è possibile che io non sia cosciente di possedere sette o otto corpi materiali differenti? Dice, allora, Theravada dice, in parte sì che te ne rendi conto. Tu ricordi te stesso bambino, ricordi adolescente, giovane, adulto. Te ne sei accorto dei tuoi cambiamenti fisici, di peso, di statura. E in parte no. Quindi lei dice, se tu ripensi e ricordi, lo sai che c'è avuto, però ti sembrano cose che sono passate. Riprendo la lettura. In parte no, perché la tua coscienza è incatenata al presente momento di esistenza. Vedi sempre solo l'ultima carta. In questo paratempo, siccome stiamo visitando il passato, contempli il tuo corpo di bambino esistente e vivo. Come vivo ed esistente sei tutto te stesso nel magazzino della quinta dimensione. Dice, vorrei comprendere bene tutto questo, dice Riccardo. È una parola, gli risponderei. Lo comprenderai bene quando lo vivrai nel cielo. Ecco, qui vorrei subito fare una cosa. Sapeste quante volte mi imbatto, che poi a volte purtroppo in domande fatte via mail o fatte anche cioè, di tante questioni, ma che ne so, cioè, che cosa ne possiamo sapere? Noi non abbiamo una conoscenza, una comprensione perfetta di queste cose. Tutte le cose che riguardano la fede, queste realtà, hanno una conoscenza. Dice San Paolo, imperfetta, confusa, non chiara. Tu cogli qualche aspetto, ma non puoi comprenderlo bene, perché qui non si possono comprendere certe cose. Cioè, noi non possiamo avere una perfetta conoscenza di né fare un perfetto discernimento. È la nostra condizione, è impossibile fino a quando siamo qui. Questo non vuol dire che non si abbia una conoscenza vera. Una conoscenza vera, però, dinanzi alla quale tu devi avere l'umiltà di non pretendere di capire bene tutto, perché se pretendi di capire bene tutto, diventi ateo, per forza. Perché non lo puoi capire bene tutto. Allora lo comprenderai quando lo vivrai nel cielo. Per adesso non dimenticare che ogni essere, per il solo fatto di essere, vedete, qui fa riferimento a alti principi della metafisica. È uno, vero, buono ed è bello. Sono i quattro classici e grandi valori. Ebbene, aggiungi adesso il quinto valore. Ogni essere è eterno. Anche qui mi devo un attimo fermare. Allora, perché qui si spazia dalla scienza alla metafisica. La metafisica, per chi non lo sapesse, è una branca, la più nobile, della filosofia. Allora, secondo Aristotele e anche secondo San Tommaso, i trascendentali dell'essere, si chiamano così, perdonatemi le parolacce, cioè gli attributi che ogni ente ha semplicemente per il fatto di essere, sono tre. Guardatemi, ogni essere in quanto ente è uno, io sono uno, questo telefono è uno. Questi occhiali sono uno, ok? Ma, secondo trascendentale, questo essere, la mia persona, il telefono e gli occhiali, sono cose buone, perché per il fatto stesso di esistere, sono cose buone. Cioè, una cosa in quanto è sempre buona, non è in se stessa cattiva, mai. E ogni ente in quanto ente è vero, cioè non si può dire che questa cosa non esiste. Quindi è vero e sono vero. Questi trascendentali erano accettati da tutti in filosofia. Qualche altra scuola filosofica, specialmente quella di matrice agostiniano-francescana, ha aggiunto un quarto trascendentale dell'essere, che qui Teneramata dà per acquisito, che è ogni ente in quanto è bello. Verissimo. È bello. È bello perché porta in sé qualcosa, un barlume anche minimo, dell'infinita bellezza di Dio. Evidentemente queste cose sono vere al massimo grado possibile. In Dio, però in Dio sono presenti per antonomasia. Dio non si può dire, Dio non è semplicemente vero, ma Dio è la verità. Dio non è semplicemente buono, ma Dio è la bontà. Dio non è semplicemente bello, ma è la bellezza. Dio non è semplicemente uno, ma è suprema unità nella Trinità, tra l'altro, come noi sappiamo e come ci ha rivelato. Quindi capite, no? In Dio questi trascendentali, diciamo così, si trovano non come trascendentali dell'essere, ma si trovano proprio nell'essenza stessa. Perché in Dio essere e essenza coincidono, però non vorrei adesso farla troppo complicata. Rimaniamo qui. Ora dice: aggiungi a questi quattro trascendentali un quinto. Ogni ente, in quanto ente, è eterno, cioè non può cessare di essere. E attenzione, non soltanto nel fatto che non morirà mai, ma anche nel fatto che da quando è stato creato, ha conservato tutto ciò che è e che è stato, e tutto ciò che è e che è stato semplicemente si conserva, c'è. E Riccardo esclama: ah, questa sì che è una novità che mi hai rivelato. E anche qui Teneramata obietta: no, già lo sapevi. Sto leggendo nella tua mente le leggi fondamentali della scienza che hai imparato. Legge la mente, Teneramata. Niente si crea e niente si distrugge e tutto si trasforma. Questo è vero, questo qui, eh. Di nuovo, penso che più o meno sappiamo che queste cose, anche attraverso la mia memoria, risalgono ad Albert Einstein. Ti mancava chiarire soltanto che le trasformazioni avvengono nel momento presente, ma dopo che sono avvenute, perdurano senza fine nell'eternità creata. Come vedi, la legge della conservazione della materia energia, questa, niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, questa è la legge della conservazione della materia energia, ti sta svelando il mistero della quinta dimensione. In questo paratempo tu stai vedendo il tuo corpo di bambino immobile, ma vivo. Tuttavia, attenzione a questo passaggio, come viatore, e lui lo è, sta vivendo un'esperienza straordinaria. Nessuno di noi può vivere una cosa del genere senza un intervento straordinario divino. Non saresti capace di sopportare la visione dei tuoi corpi, o meglio, del tuo corpo globale, muovendosi nel corso ordinario del tempo terrestre. Tu puoi immaginare il contemplare i tuoi sette corpi in piena attuazione, l'osservare te stesso in una super introspezione al tempo stesso soggettiva e oggettiva. Cioè, che cosa significa questo qui? Cioè, io so 50 anni, posso immaginarmi che in contemporanea si attua il mio essere infante, bambino, adolescente, giovane, adulto e uomo maturo? In contemporanea. No. No. Non è possibile farlo fino a quando sono viatore. Non si può fare. Sarebbe meraviglioso, dice Riccardo, contemplare tutti i miei corpi attuandoli tutti contemporaneamente. Ha capito? Non potrei vederli. Abbi pazienza. Soltanto quelli che sono glorificati, liberi dal legame della coscienza col momento presente, possono godere queste meraviglie. Capite qual è la condizione dell'assenza di gloria? Che cosa sta dicendo? Il nostro essere legati. Noi non possiamo sfuggire dall'istante presente. Eh? Sapete quante persone, come dire, stanno soffrendo per tante situazioni che viviamo a livello personale, a livello sociale, politico, economico, ecclesiale. Sappiamo che la Madonna Fatima ha detto alla fine il mio cuore immacolato trionferà, ma lo sappiamo, ma noi non possiamo fare un jump e andarcene avanti di 30 anni. Attenzione, anche se nell'eternità creata, o meglio, nell'eternità increata di Dio, già è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma per noi no, perché noi siamo qui in questa dimensione adesso ed è volontà di Dio che viviamo così in questa dimensione a causa delle conseguenze del peccato originale. I diversi stati, riprendo la lettura, di sviluppo corporale in qualunque spazio-tempo delle sue fasi evolutive, terrestri e celesti possono essere glorificati dall'anima in un determinato momento. Dall'anima chiaramente che si trova già sganciata dall'essere viatore. Oh, è molto divertente goderne in cielo. Adesso cominciamo a vedere un pochino che cosa significa. Io lo posso fare appena in sette stadi, a causa del mio piccolo grado di gloria. Ogni tanto, quando Teneramata dice a causa del mio piccolo grado di gloria, cerchiamo di fare qualche considerazione, perché io mi sfiato, perdonatemi il termine, in continuazione, ad esortare le persone, dico, amico mio, state attento, statti, cioè pensaci, tu con questi 4 anni, perché sono 4 anni, pure se fossero 100, di questa vita terrena, ma tu ti giochi l'eternità. Ti giochi una beatitudine che potrebbe essere molto molto più grande. I santi, tutti lo hanno raccontato, non ci vorrebbero mai tornare sulla Terra, mai, insomma, sono mica matti. Salvo che, qualcuno dice, noi ci tornerei per fare qualche altra opera santa, qualche altra penitenza, qualche altro, così avrei un grado di gloria maggiore. Unico motivo che gli fa tornare il desiderio di tornare sulla Terra. Fino a quando noi ce lo possiamo permettere, facciamo attenzione. Allora, io posso farlo soltanto in 7 stadi, a causa del mio piccolo grado di gloria, e riesco a vivere e a sentirmi bambina, sentite, fanciulla, adolescente, fidanzata, sposina, madre e nonna. Sono 7. Ma mi è fattibile fare molte altre combinazioni. Noi cambiamo le nostre fasi corporali, noi beati, come voi cambiate vestito. Nella patria disponiamo di moltissimi aspetti fisici. Tu potrai essere e sentirti giovane nella gloria. Attenzione, non sarai come un eterno ritratto. Fermiamoci un attimo, no? Prendete questa cosa e applichiamola, per esempio, alle apparizioni mariane, che la gente rimane sconvolta. Dice, allora, a Međugorje la Madonna dice che aveva i capelli castani e gli occhi chiari, che ne so, è apparsa come una ragazza di 20 anni. A Guadalupe è apparsa come una meticcia. E ad Anguera dice che c'ha i capelli neri e gli occhi azzurri. Ah, allora non è la stessa Madonna. Alla Salette era apparsa come una donna matura che piangeva. Amici miei, per i beati queste cose qui sono giochi da ragazzi, cioè è come se tu ti cambi un vestito. Non abbiamo un eterno ritratto. E sai, è monotono, no? C'è molta gente che dice, anche San Tommaso, non conoscendo queste cose, dice, come saranno i corpi dei glorificati? Ma i corpi dei glorificati saranno tutti quanti 33enni come nostro Signore Gesù Cristo. Bella questa cosa qui, no? Però è anche un pochino monotona, no? Ecco, quindi sì, sicuramente ci sarà. Cioè, noi possiamo assumere le forme corporali che vogliamo, nella misura in cui, a seconda del grado di gloria che abbiamo raggiunto, però, perché vedremo che molti gradi di gloria, pam, alti gradi di gloria, non ne parliamo che manicomio in senso buono che succede. Un'altra volta, quando ti descriverò un po' la sesta dimensione, io l'ho letto 5-6 volte e devo ancora capire bene che cos'è questa sesta dimensione. Credo che sia l'eternità increata, però non sono tanto sicuro. Potrai intravedere il prodigio che realizzano i glorificati molto preminenti, quelli che stanno molto in alto. Sono in grado, attenzione, no, cioè, proviamo ad immaginarlo, ma non possiamo capirlo. Sono in grado di vestirsi con tutto le loro fasi corporali nello stesso tempo in un unico atto di coscienza. Ma vi rendete conto? Tutte le fasi corporali nello stesso tempo, in un medesimo atto di coscienza. Cioè, in un medesimo atto di coscienza, i grandi beati possono essere bambino, fanciullo, adolescente, fidanzato, sposino, madre e nonno. E chi non è stato fidanzato e sposino? Cioè, io sono stato fidanzato quando ero più giovane, ma non sposino, perché grazie. Ci sarà qualche altra cosa. Che cosa significa? Partecipano analogicamente della ubiquità divina, cioè del fatto che Dio può essere contemporaneamente tutto e dovunque. Voi capite cosa significa? Chi è Dio? Una delle caratteristiche di Dio è l'immensità, no? Qui la chiamo l'ubiquità. Come si enuncia l'immensità? Vedete perché era meglio rimanere al Catechismo di San Pio X? faccio consigli per gli acquisti. Nel Catechismo dell'Esempio Decimo, non parlate di queste cose proprio all'inizio, perché il Catechismo dell'Esempio Decimo comincia proprio così, descrivendo i quattro attributi divini, che sono quelli suoi, che sono l'eternità, l'immensità, l'onniscienza e l'onnipotenza. In base all'immensità, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo, è tutto e dappertutto, in contemporanea. Per Dio non esiste spazio e tempo, cioè è tutto e dappertutto. Lui è qui adesso, ascolta benissimo quello che io sto dicendo, speriamo bene che vada tutto bene, ma lui si trova in contemporanea in chissà quale altra galassia che noi non sappiamo neanche che esiste, di tutto quello che ha combinato in tutto l'universo, perché nostro Signore ne ha combinate tante in giro, eh. Ma un beato inferiore, ecco qui, vuoi trascorrere la vita a perdere tempo con le bagattelle mondane, quindi a non crescere in santità, in grazia, dice, a messa soltanto la domenica, ammesso che è già mezzo miracolo che oggi che ci va, perché dopo te dovesse far male andarci un po' di più, eh. Fai, ma sappi che questo ci avrà delle conseguenze. Dice, ah, ma io in paradiso ci vado lo stesso? Ma certo che ci vado lo stesso, basta che osservi 10 comandamenti, però ci avrai in grado di gloria basso. E ti divertirai di meno se c'è in grado di gloria più basso. Detto proprio godrai molto di meno. Dice, un beato inferiore, riprendo la lettura, dispone di pochi involucri corporali contemporaneamente. Pertanto, fai il proposito di raggiungere con le tue buone opere terrene un alto grado di gloria futura. E non perdiamo tempo, perché non sappiamo quanto tempo ci abbiamo. Voi pensate le imbecillità che si dicono adesso, che mo adesso quando penso a queste cose, dopo mi infervoro, ma lo sapete perché a me dispiace, no? Pensate se una persona andando dietro ai mantra attuali, ah, la misericordia, la misericordia, la misericordia, quando uno muore tutti quanti in paradiso perché Dio è misericordioso, qualunque cosa tu abbia fatto. Se uno ci crede a questa cosa qui, a parte il fatto che rischia di non andarci in paradiso perché misericordia, misericordia, ma per esempio non gli verrà in mente, dico, ma guarda che io mi devo, cioè se io faccio un'opera buona in più o in meno, non è la stessa cosa. Qui e dopo. Tutti quanti gli esseri umani sono tutti quanti impegnati, ma io lo dico sempre, no? L'ho già detto in altre, dico, non ti stai tu a preoccupare adesso della pensione e quindi di mettere da parte i soldi, perché dopo quando non lavori più, se ti pigli un coccolone, che fai? Ma scusa, ma non sarà anche saggio accumulare e mettere da parte per qualche cosa di più importante, per la vita eterna, per la gloria, per la beatitudine? Forse sì, no? Riprende a parlare Riccardo. È portentoso l'organismo umano integrale, ma già glorificato, poiché in questa vita non disponiamo nemmeno di un altro corpo di scorta, a modo di vestito per cambiarci. Questo c'è adesso. Io questo tengo adesso. Non posso tornare a 20 anni quando avevo tutti i riccioletti neri e tanti capelli di più, tanto per dire, per fare una battuta. Non lo posso fare. Tuttavia, vedete, Riccardo continua a esprimere le sue umane titubanze, no? I suoi umani dubbi. Non c'è confusione psicologica in questa molteplice esperienza di vita, ed ecco che Tennamata fa riferimento a un nuovo concetto tolto da San Tommaso d'Aquino, perché San Tommaso d'Aquino ci ha visto bene su tante cose. Sentiamo. No, perché la capacità intellettuale del beato è enorme. Certo, se tu adesso, con la capoccetta che c'è adesso, ti dovessi ritrovare in contemporanea ad attuare sette corpi diversi della tua, sette stati diversi del tuo organismo corporeo, della tua esistenza, andresti un po' al manicomio, andresti, no? Cioè, come la faccio a gestire questa cosa qui? Dice, entro in confusione psicologica. Adesso. Ma tu non puoi paragonare l'intelligenza che hai adesso a quella che ci avrai in cielo. La capacità intellettuale del beato è enorme. Pensate, per esempio, che in cielo si parlano una caterva di lingue senza averle studiate. Chi studia le lingue, insomma, io qualcuno le sto studiando, vedi la fatica che si fa, enorme, per impararti qualche cosetta. Non ti dico poi quando la devi perfezionare, che c'hai qualche aspirazione al bilinguismo. Fatica enorme. In cielo non c'è nessuna fatica. Nessuna. La luce della gloria, ecco il concetto tomistico. Lumen gloriae, il lume della gloria. E il dominio sulla sesta dimensione ci rendono capaci di godere simultaneamente, attenzione al termine simultaneamente, questa parola è una parola divina, perché il simultaneo non è che noi, cioè, guardate che noi simultaneamente sulla Terra non siamo buoni a fare quasi niente. Possiamo fare al massimo un paio di cose insieme, ma già quando stiamo facendo un paio di cose insieme l'attenzione è labile, ma non è che possiamo farne 10 cose insieme. In cielo non funziona così. Il dominio sulla sesta dimensione ci rendono capaci di godere simultaneamente di mille meraviglie. Ma vogliamo fare una prova? Ma vi siete mai chiesti? Facciamo sempre funzionare il nostro cervelletto, avete idea di quante tabernacoli ci possano essere nel mondo? Vabbè, qui entriamo nel mondo di Dio. Quanti? E voi sapete che in ogni tabernacolo c'è Gesù, Gesù, eh? E qualunque persona va dinanzi a quel tabernacolo, sta a contatto con Gesù e Gesù, e Gesù si occupa di quella persona in quel tabernacolo, proprio davanti a quel tabernacolo, ma proprio di lei, eh? Ma proprio di lei. E in quanti posti lo sta facendo? Non ti viene la domanda, ma come fa? Certo che non lo possiamo sapere come fa, è domanda spontanea. Un beato entra nel mondo di Dio e comincia ad avere questa capacità della simultaneità, che noi qui non possiamo capire. Possiamo dire, mamma mia, io andrei al manicomio. Certo che andreste al manicomio se lo facessi adesso. E negli atti celesti, attenzione, non si ostacolano gli spazi-tempi delle fasi di sviluppo corporale. Per esempio, come nella conversazione la tua coscienza è attenta ad essa e si dimentica del dito mignolo, così il beato, nel godere un'esperienza celeste di amore giovanile, non è cosciente delle sue tappe infantili, ma tutte le fasi di sviluppo del corpo perdurano vive ed integre nello stupendo archivio del tempo passato e si possono attuare in onde temporali molto diverse. Adesso questa è un'altra cosa ancora, perché una volta che è stato fatto l'atto di esistenza, attenzione, è possibile, è fattibile ubicarlo in altri tempi e paratempi. Qui la nostra mente si perde ancora di più, cioè l'atto è quello, ma tu lo puoi, una volta che entri nella quinta dimensione dell'eternità creata, ubicarlo in un altro tempo o in un altro paratempo. Vedi, il dominio, questo è il dominio che, cioè, è il dominio dei beati, la partecipazione parziale dell'onnipotenza anche di Dio. In conclusione, qualunque cambiamento dell'uomo, ascoltate bene, questo è in grassetto nel testo originale, qualsiasi fenomeno fisico, chimico, biologico, sociale, politico, religioso, perdura vivente senza fine nell'imponente archivio del tempo passato o quinta dimensione. Altro che i server di Google. Tutto si conserva, finanche il più leggero movimento. Tutto. Vedremo che poi c'è qualche piccola eccezione. Ma non devi però immaginare la quinta dimensione, aggiunse nell'osservare la mia mente, come uno scaffale di biblioteca o come un museo, dove i tuoi corpi e tutto ciò che accade loro nel momento presente si conservano in recipienti con antibiotici. No. Il cosmo funziona come un magazzino vivente e perdurevole. L'universo consiste nell'esistenza perpetua di tutte le creature, assolutamente tutte. Ricorda che lo spazio circola insieme col tempo. Adesso Riccardo fa un'altra obiezione. Ma tuttavia, opposi, grazie all'assimilazione viene incorporata nuova materia nell'organismo, la quale sostituisce la materia eliminata. Quest'ultima si elimina come un'escrezione. E io sto vedendo completo il mio corpo di bambino. E Teneramata spiega, è che questa materia si elimina nel momento presente, ma non prima, mentre era materia viva. Considera che ogni spazio-tempo conserva il fenomeno realizzato nell'istante che accadde. La grande realtà oggettiva è differente dall'evidenza che a prima vista percepisci nel momento presente. Vedete quante volte sta cercando di inculcargli un concetto che in base all'evidenza attuale è assurdo. Ma guardate che tutte le verità di fede, ancora San Tommaso d'Aquino, sono tutte inevidenti, proprio perché sono verità di fede. Inevidenti vuol dire che quello che ti sembra è il contrario. C'è gente che non crede nell'anima, per esempio, uno dice, l'anima, e chi l'ha mai vista? Dove sta? Io vedo il mio corpo, posso divisezionarlo, posso studiare il cervello. E con lo studio del cervello capisco le funzioni, anche le funzioni cerebrali, anche neuroniche, quindi l'attività del pensiero. A che serve l'anima? Dove sta l'anima? Dicono. Perché l'esistenza dell'anima, che è una verità di fede, ma non è immediatamente evidente. Se no ci crederebbero tutti. O no? Allora, per esempio, spiegò notando le mie difficoltà nel comprendere, le cellule dell'epidermide che morirono e si squamarono il martedì, capite cosa sono le cellule dell'epidermide? La nostra pelle. Sapete che se io già faccio così, se io mi faccio una grattata, ho ammazzato un sacco di cellule. Lo sappiamo questo qui, no? Quindi, mo grattono, ecco, le cellule che io adesso ho ammazzato, ma fino a 3 minuti fa, prima che le ammazzassi grattandomi, stavano sulla mia mano. Sentite, Teneramato, che cosa spiega? Le cellule dell'epidermide che morirono e si squamarono il martedì, erano vive lunedì! E così vive restano per sempre. Capite anche, già qua un sacco di gente mi comincia a fare le mail perché non ha pazienza, perché lì c'è il mio gattino che non si vede adesso qui, che sta impiccato lì sopra la poltrona, tutto contento a sentirsi la catechesi. Lui non sa che questo tempo che sta vivendo, dentro questo ambiente dove gli è capitato di stare, è la sua vita che non finirà mai. Cioè, quel gattino arriverà il giorno in cui muore, ma speriamo tra 10 anni, tra 15 anni, quest'arco di tempo temporale che lui sta vivendo, è una creatura di Dio, permane. Cioè, questi 15 anni sono la sua vita eterna. E lui tornerà cioè continuerà a vivere e io quando sarò morto tornerò e poi vedremo più avanti Tenera Amata come spiega. Perché anche per lui, grazie alla nostra attività di glorificati, per lei che è la femminuccia, ci saranno nell'eternità creata, quindi quando anche lei uscirà con la morte da legame con l'istante attuale che vale pure per il gatto, ci saranno anche per lei dei godimenti particolari datigli da me però, perché lei non è capace di prendere i doni divini della glorificazione direttamente, perché non c'ha l'anima, ma io sì. Vabbè, non voglio anticipare quello che Tenera Amata poi spiegherà più avanti. Comunque, le cellule dell'epidermide che morirono e si squamarono il martedì erano vive lunedì e così vive restano per sempre. Siccome tutto perdura senza fine, avviene che le cellule del lunedì e del martedì e quelle di tutta la vita perdurano eternamente vive. Osserva che gli atti di esistenza furono successivi, non simultanei. E perciò è possibile distinguerli e situarli secondo l'orologio e il calendario. Ma nella realtà oggettiva, sentite come la chiama sempre, la realtà oggettiva, la materia, energia, biologia, questo noi siamo, materia, energia, biologia dell'essere umano, esiste integralmente, sebbene non nello stesso spazio-tempo, ma in una serie innumerevole di spazi-tempi successivi. Ti dicevo, e questo ricordiamo, questo è un altro concetto basilare, sentite come che continua a parlare di spazi-tempi, che il tempo distaccato dalle cose non ha una realtà oggettiva. Ogni istante si aduna alla materia e energia di ogni essere corporeo, affinché questo compia il suo atto di esistenza. Perciò l'essere, la sua materia, la sua energia, il suo spazio e quel tale preciso momento di tempo formano un tutto inseparabile. Per esempio, adesso io ho fatto un gesto, ho gesticolato, chi sente l'audio non può vedere, no? Per esempio, ho stretto le mani nell'atto del gesticolare. Allora, focalizziamo questo aspetto. Ho stretto le mani nell'atto del gesticolare, adesso è passato un pochino di tempo. A che ora? Alle 22 e 25, magari 12 secondi dell'anno 2022. Quell'atto è stato fatto in quel momento. È stato fatto. È stato fatto. Sta lì. Adesso per me è già passato. Non lo posso riandare a chiappare più, posso rifarlo questo gesto, ma non posso chiappare quello che ho fatto 2 minuti fa. Ma cosa sta lì sta? Conseguenza, non voler separare una cosa dal suo tempo passato. Ogni corpo è costituito dalla somma dei suoi spazi e tempi che corrispondono agli atti di esistenza che ho compiuto sin da quando ebbe inizio la sua natura. Interviene Riccardo. Allora io esisto e sono una persona con un corpo totale, costituito dall'insieme di innumerevoli atti di esistenza che ho realizzato in altrettanti spazi-tempi. Il mio organismo è molteplice, non solo perché è l'insieme dei miei stati di feto, bambino, adolescente, adulto e anziano, ma soprattutto perché sono la somma di un'infinità di atti vitali. E ogni atto della mia esistenza conserva la materia, l'energia, lo spazio e il tempo in cui effettuare l'azione esistenziale. Il momento presente manifesta nient'altro un bilancio istantaneo del mio essere. Ah, e se è così sono un gigante mostruoso. In verità, risponde Tenera Amata, sei un gigante nella realtà oggettiva, ma non mostruoso. Perché i tuoi atti di esistenza ancora, come anche gli spazi e i tempi che li conservano, furono successivi, non simultanei. Le tue azioni del 31 luglio e quelle del 1 agosto persistono separate, non avvennero in due giorni simultanei. Interviene Riccardo. Ora incomincia a capire la similitudine del mazzo da gioco. Ciascun atto della mia esistenza è come una carta indistruttibile nell'enorme mazzo di carte della mia vita. E a proposito di quello che ha detto prima, che possono essere cambiati gli spazi-tempi di collocazione, tu un mazzo di carte lo puoi mischiare. Se tu mischi un mazzo di carte, attenzione, non è che l'asso di quadri, se lo mischi, diventa re di picche. No, rimane sempre asso di quadri, ma se tu mischi, cambia posizione all'interno del mazzo. Ecco l'immagine del mazzo di carte. Dico, ora incomincio a capire la similitudine del mazzo di carte. Ciascun atto della mia esistenza è come una carta indistruttibile nell'enorme mazzo di carte della mia vita. Sì, è così. Il tuo organismo integrale venne all'esistenza con una sola anima spirituale e una cellula uovo. Oi, l'anima spirituale sta già nella cellula uovo, eh? E non ci sia nessuno stupore di questo qui, perché l'anima spirituale, essendo appunto spirituale, può stare anche dentro un atomo. Chiaro? Questo vale per gli abortisti, a proposito che in Francia vogliono mettere nella Costituzione il diritto all'aborto. È tutto partito dalla Francia, adesso le ultime follie devono farle in Francia, no? In questo modo si costituì il tuo essere individuale. Allora iniziò la riproduzione cellulare. Boh, adesso sappiamo dalla genetica, no? Le famose cellule totipotenziali, no? Le cellule staminali, di cui si parlava tanto negli anni passati, quelle che all'inizio sono potenzialmente capaci di specializzarsi in qualunque tipo di funzione biologica organica e poi mano a mano che si moltiplicano si vanno specializzando, no? E formano poi l'organismo. Allora iniziò la riproduzione cellulare, quindi acquistasti materia ed energia dalla mamma, ovviamente. Fino a quando siamo stati nel grembo, diventasti embrione e ti sviluppasti, biologicamente ti organizzasti senza che la tua coscienza se ne accorgesse. Che qualcuno si ricordava quello che stava accadendo nel grembo della madre. Gesù sì, ma noi no. Ecco. E nascesti. Dopo i processi vitali, soprattutto l'assimilazione e l'eliminazione, ti hanno fatto sostituire a poco tutti i tuoi atomi. Ma nonostante ciò, questa sostituzione di materia e energia, come quella di cellule e tessuti, è puramente soggettiva, proprio dello stato deviatore, con la tua coscienza legata al momento presente. E Riccardo dice: No, io credo che questa sostituzione sia molto oggettiva. No, risponde Teneramata. È che tutto quanto succede, tu lo giudichi in rapporto all'istante attuale, nell'eternità. Oggettiva, non esiste il catabolismo così come lo intende la biologia. Metabolismo che è il contrario del il catabolismo è il contrario del metabolismo, quindi assimilazione e eliminazione. La materia organica non si elimina definitivamente. Quindi il catabolismo, l'eliminazione della materia organica, non esiste nella realtà oggettiva, perché la materia organica non si elimina definitivamente. Ti ho detto che ciò che tu elimini in un certo momento era cosa vivente e assimilata nel momento anteriore. E che così vive e assimilata rimane per sempre, poiché ogni atto di esistenza, insieme col suo spazio-tempo, perdura senza fine una volta che è stato realizzato. Ultima obiezione di Riccardo, perché Riccardo è persona intelligente, è pure uno scienziato, e dice: Ma la escrezione, dice lui, è sommamente reale e oggettiva. Risponde: Sì, ma corrisponde all'atto di esistenza dell'istante attuale, nulla di più. Capite che significa l'escrezione? Non vorrei fare esempi, insomma, no? Non significa una perdita per l'organismo totale, in rapporto all'eternità creata, ma non in rapporto evidentemente al momento presente. È falsa l'idea che la tua materia e energia sia più volte cambiata nel corso della tua vita. Questo cambio è un'illusione. Nell'eterna realtà oggettiva tu sei il medesimo in un processo di costante accumulazione e arricchimento. Ma tale ricchezza non si trova nel momento presente, si trova nella quinta dimensione. Capisci bene? E così concludiamo. Secondo la biologia, che giudica ogni cosa dalla prospettiva del momento attuale, la materia del tuo corpo è cambiata circa 8 volte durante la tua vita. Ma dal punto di vista dell'eternità creata, non hai fatto scambio, ma accumulo di materia e energia nel tuo organismo integrale. Questi sono concetti, amici miei, tantissima roba. Chiaro che sono concetti, amici miei, purtroppo, molta gente dice... Perché tante cose il nostro Signore non ce le rivela? Ma perché se ce ne rivelasse troppo non saremmo in grado di stargli dietro, di capirle. Già stare dietro a queste cose ci vuole, non poco ci vuole, no? Perché molta gente mi dice, sì, Terra Amata è bello, c'ha un sacco di passaggi bellissimi, sono dei passaggi che sono molto complicati, non si riescono a capire. Adesso non so se ho aiutato qualcuno a capirci un pochino qualcosa di più, lo spero. Ecco. Però... Questa è tanta roba, questa qui. Cioè, ripercorriamo quello che ci possiamo, quel poco che ci possiamo immaginare. Noi, per esempio, non possiamo immaginare il godimento che possa dare attuare simultaneamente spazi-tempi differenti, cosa che si può fare tranquillamente nell'eternità creata. Cioè, soltanto una serie di divertimenti che... Lei li descrive, io dico, ma non riesco neanche a capire come possano accadere. Pazienta, gli dice, perché poi dall'altra parte non solo che capirai, capirai, vedrai e godrai. Quindi queste cose prendile come un flash di luce. Portati a casa tutto quello che riesci a capire. Ma la cosa più importante è l'esortazione che Terra Amata ha fatto. Cerca di crescere in santità. Perché più crescerai in santità, più queste cose, che comunque sono varie, sono vere per tutte, saranno più vere per te, nel senso che potrai goderne con maggiore intensità e con maggiore profondità e con maggiore larghezza, ampiezza. E non è questa, amici, affatto la stessa cosa. Detto questo, ci aggiorniamo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga.